facendo bene i conti, ne ha cinque più di me. Se il nero fosse bianco, se il bianco fosse nero, sarei poco sicuro di quello che ora so. Io che mi fido solo di chi mi ha dato il cuore, quando non ce l'avevo mio e sono ancora qui con le mie domande, e sono ancora qui, cosa farò da grande? Non seguo l'uomo bianco che parla delle donne, non lo capisco quando parla di Belzebù. Nell'uomo più feroce, nel serpe più cattivo, se Cristo fosse vivo, io lo vedrei anche lì, anche se non lo vedo, non mi comporto male, corro da indipendente, sempre sono ancora qui, qui con le mie domande, e sono ancora qui, cosa farò da grande, sono ancora qui, qui nelle mie montagne, e sono ancora qui. Tizio che ha rubato stanotte in casa mia non ha portato via un dubbio che c'è in me. Se non mi andava bene con le canzoni, forse ero dalla sua parte e c'era un ladro in me.